La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Subito le ultime notizie dal Parlamento: arriverà mercoledì prossimo in Consiglio dei Ministri il decreto cosiddetto svuota carceri, lo ha detto proprio qui alla Camera il Ministro della Giustizia Cancellieri, ed ancora via libera oggi alla legge di conversione del decreto sulle emergenze ambientali. La Camera ha approvato il testo con 336 voti favorevoli e nessuno contrario, 133 tra gli astenuti, soprattutto tra il Movimento 5 Stelle. Il Premier Letta ha incassato così la sua prima fiducia parlamentare su un provvedimento, fiducia che era stata posta a causa dell'ostruzionismo proprio dei cosiddetti grillini. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Ostruzionismo dunque del Movimento 5 Stelle, pesantemente criticato in aula dal deputato PD Enrico Borghi. Ascoltiamo Borghi. Abbiamo assistito da parte di una porzione dell'opposizione ad una scelta di tipo diverso. La scelta cioè di anteporre al merito delle questioni le tattiche di una guerriglia parlamentare proprie dei mestieranti della politica, tanto disprezzata quando si era ancora semplici cittadini. Con questo provvedimento, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, siete definitivamente sbarcati anche voi nel tanto vituperato gioco delle parti, delle tattiche parlamentari e dei messaggi lanciati per occultare sistematicamente realtà scomode che comunque appaiono quotidianamente sotto gli occhi dei nostri concittadini. Avete anche voi perso l'età dell'innocenza. Ma a giudicare da questi atti state imboccando non già la fase della maturazione adulta, quanto quella della regressione infantile, che alla coerenza delle posizioni politiche sostituisce l'urlo della tifoseria da stadio. Queste dunque le parole dell'onorevole del PD Enrico Borghi, secondo il quale Movimento 5 Stelle con l'ostruzionismo, il primo ostruzionismo in aula qui alla Camera, avrebbe perso l'età dell'innocenza. Il Movimento 5 Stelle logicamente non ci sta a questa fotografia fatta dal PD. La replica in aula affidata al capogruppo Riccardo Nuti, ascoltiamo. Che figura ci fa un governo con una maggioranza così ampia a porre la questione di fiducia? Ecco l'ennesimo ricatto di un governo degli inciuci nei confronti di un Parlamento di nominati, tra le cui pareti rimbombano giorno dopo giorno parole vuote, una retorica assordante. Un affannarsi cui non corrispondono mai spazi di manovra, di discussione e di decisioni reali, concrete. Questo decreto vuole risolvere delle emergenze ambientali, ma in realtà le aggrava e ne crea di nuove. Ci avete dato degli irresponsabili. Noi volevamo che fosse un decreto che portasse i territori interessati fuori dall'emergenza, ma l'emergenza a questo governo conviene per poter continuare a far ciò che è stato fatto negli ultimi 20 anni. Voi siete dalla stessa parte di chi rideva al telefono la notte del sisma all'Aquila. Voi siete quelli che proprio l'altro giorno avete bocciato il nostro emendamento che prevedeva l'esenzione dell'IMU agli immobili inagibili per le calamità. E questa dunque è la difesa del Movimento 5 Stelle dell'ostruzionismo applicato negli ultimi giorni dei lavori parlamentari, nelle parole del capogruppo Riccardo Nuti. Necessariamente restiamo con il focus sul Movimento 5 Stelle, perché oggi dobbiamo segnalare una nuova defezione, quella della senatrice Paola De Pin. Una decisione, ha spiegato la senatrice, presa dopo l'espulsione della collega Gambaro. Ascoltiamo allora le ragioni della De Pin. Non accetto queste posizioni dure, non portano da nessuna parte, non siamo un popolo che vuole lo scontro, i cittadini non lo vogliono, non gli interessa questi scontri, non fa parte della nostra cultura portare un processo così, un'inquisizione, a che pro? No all'inquisizione dunque, dice la senatrice De Pin, giustificando la scelta di uscire dal gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. E Grillo è nella sua personalissima campagna elettorale, ha parlato ieri, è tornato a parlare oggi, sembrerebbe arrivare da Grillo un tono più conciliante verso i malumori al proprio interno, all'interno del proprio movimento, ma Grillo continua comunque a puntare il dito su PD e PDL. Allora ascoltiamo un passaggio dell'ex comico. Quando tu inserisci dei soldi, si disintegra il senso della politica. Quando li togli o sei appassionato, perché il Movimento 5 Stelle per 2.700 euro al mese trasferiti a Roma non è appetibile dal punto di vista finanziario e economico. Fai due legislature e te ne vai. Non c'è più niente, non c'è più neanche il PDL. Se il nano se ne va, il nano ormai o prende l'elicottero o farà una brutta fine, non c'è neanche più il PD. Il PD è sciso in 10-15 correnti, non c'è più niente. A cosa serve l'opposizione? Tanto il governo risolve con la fiducia come faceva il governo Berlusconi e Monti. Viva Grillo, scrive un nostro ascoltatore. Sin qui dunque le diverse anime che agitano il Movimento 5 Stelle e le parole le abbiamo sentite di Beppe Grillo. Altro partito politico, in questo caso non movimento, un po' sotto i riflettori, è la Lega Nord, uscita abbastanza colpita dalle ultime amministrazioni. In questi giorni si susseguono gli incontri ai vertici per ridare comunque una nuova forza al movimento. Allora noi abbiamo avvicinato l'onorevole Massimiliano Fedriga, che è relatore di minoranza qui alla Camera in Commissione Lavoro per quanto riguarda il provvedimento su IMU e ammortizzatori sociali. E Fedriga, nell'intervista che abbiamo fatto, ci risponde inizialmente sulla delusione della Lega perché le proposte sull'IMU non sono state accettate in Commissione Lavoro, ma poi si lascia ad un'analisi proprio sul futuro del Carroccio. Ascoltiamo Fedriga. Era un pacchetto di emendamenti che per esempio voleva esentare dal IMU prima casa anche coloro che danno la casa a parenti fino a primo grado in comodato gratuito. Sembra un'ingiustizia che paghino l'IMU come se fosse seconda casa, purtroppo anche su questo abbiamo trovato le porte chiuse. Allargando invece il tema alla politica più stretta, momento di riflessione all'interno della Lega, dove sta andando il Carroccio secondo lei, anche alla luce dei risultati delle ultime amministrative? Beh, direi anzi un momento di ripartenza veloce. L'incontro che abbiamo fatto con il segretario federale Roberto Maroni ha detto con chiarezza che adesso la Lega deve essere compatta, unita, perché i temi della Lega, come la questione settentrionale, di cui siamo gli unici portavoce, è di estrema attualità, è molto sentita dalla gente e quindi sarebbe prima di tutto un, diciamo, tradire non il movimento ma i cittadini del Nord se non riuscissimo a portare avanti queste battaglie e portare a casa dei risultati concreti. Ecco, queste sono battaglie che secondo lei se ne è fatto un po' carico il Movimento 5 Stelle ultimamente, o meglio, anche la questione settentrionale è un po' passata di moda o è ancora attuale? Beh, per quanto riguarda la questione settentrionale, mi sembra che il Movimento 5 Stelle assolutamente non se ne sia fatto carico, anzi l'esatto opposto. Ricordo che Grillo, quando è andato in Sicilia, ha osannato i 27.000 forestali della regione Sicilia, che sono, per capirci, 100 volte i forestali della mia regione, che è il Friuli Venezia Giulia, che ha una superficie boschiva più ampia. Per quanto riguarda la questione settentrionale è tutta aperta, anzi basti vedere la crisi che sta vivendo il Nord e quanto viene fatto pagare al Nord dall'improduttività dello Stato e dalla burocrazia dello Stato e dagli sprechi dello Stato e di alcune regioni del paese in particolar modo, per capire chiaramente che la questione settentrionale è ancora viva più che mai. E questa dunque la fotografia dell'onorevole Fedriga per quanto riguarda il futuro del Carroccio. Il ministro dell'Ambiente Orlando garantisce che ci sarà l'impegno del governo per colmare la lacuna, ovvero dell'ingresso delle misure antisismiche all'interno dell'ecobonus al 65%. Come si fa ancora a credere ai vecchi partiti? Ma guardate dove ci hanno portato. Sveglia, guardate cosa succede in Brasile, scrive Hermond. Il problema della politica italiana sono gli italiani stessi, scrive Max da Pistoia. La politica alla prova si ferma qui, ci risentiamo lunedì. Un saluto da Vincenzo Miglietta.